te quanto ci manca la fine, non so ma impazzirò quanto di strada, non so quanta luce che va dai miei occhi verso i tuoi occhi. Passo di tango e la vita si sa che se ne va. Stringi la rosa e la libertà che gira e va. 4 minuti, lo sai, non finiscono mai. La mia bocca sulla tua bocca ancora. Comunque sia, è stato uno sbaglio spingerci più lontano, pura follia, danzare nel fuoco, volteggiare nel vetro, perché con la faccia al vento si sa l'amore non brucia lento. Questo distacco se lo colmerò, lo finirò. Tra noi è questo amore che va, che si intreccia a metà, brucia e implora, ma non si tocca ancora. Comunque sia e comunque vada, dirigiamo.